Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Certo che la mamma può farlo, poi io spero lo faccia Giachetti, ma una mamma può assolutamente farlo. È intervenuto anche Renzi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sulla polemica scaturita ieri dalla frase di Bertolaso, candidato del centrodestra o forse ormai solo di Berlusconi, a Roma ancora non si capisce, sulla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, dicendo, quando dei giornalisti fuori onda sulla 7 gli hanno chiesto a Bertolaso se riteneva, nel caso vincesse lui come sindaco, di poter avere accanto come vice sindaca Giorgia Meloni, lui aveva risposto, lo sapete ormai, celebre frase che sarà iscritta nel marmo: pensi a fare la mamma. Oggi tra l'altro ci è ritornato ancora e ha ribadito questo pure Berlusconi, mentre Renzi, avete sentito, ha detto: per me può fare tranquillamente la sindaca, però preferisco Giachetti, perché Giachetti invece è il candidato del centrosinistra, o forse solo del PD, perché torna Marino, perché si candida Fassina per la sinistra italiana. Comunque, al di là di questo, Giachetti ha detto anche una cosa interessante oggi, sempre su questa polemica, ha detto: se questi uomini così bravi a dare consigli alle donne cambiassero qualche pannolino in più, questo sarebbe un paese migliore. Penso io, anch'io la penso così. Comunque, al di là di Giachetti, Giorgia Meloni ha deciso di sfidare Bertolaso e Berlusconi, e dopo tutte queste polemiche, o qualcuno, dopo questi sconsigli, diciamo, a farsi avanti, lei ha praticamente quasi deciso di candidarsi a sindaca. Dice: mi prendo 24 ore e decido domani, però oggi dalla presidenza di Fratelli d'Italia è venuto fuori effettivamente che lei può tranquillamente, anzi deve scendere in campo, quindi forse è solo formale questa attesa di 24 ore, già probabilmente decisa la candidatura di Giorgia Meloni. Secondo voi, quindi, a questo punto una mamma come Giorgia Meloni può svolgere un ruolo istituzionale così importante, e tra l'altro chi deve deciderlo? 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi, per i vostri sms, 349-238-6666, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte, che voi sapete lì è giorno e notte sempre lì per voi, potete aderirvi senza indugio naturalmente in ogni istante, e non vi perdete come sempre nessuna puntata di Effetto Notte, perché se volete essere ragguagliati e aggiornati su tutte le notizie più importanti della giornata e anche capirne alcune in modo particolare con gli approfondimenti, perché sapete che poi ci sono gli ospiti su alcuni temi, non perdete neanche un istante di Effetto Notte. Adesso vi riassumo brevemente la giornata. Belgio, blitz antiterrorismo a Bruxelles, 4 poliziotti feriti e un sospetto terrorista ucciso. Immigrazione, 1000 migranti recuperati al largo della Libia dalle navi militari europee. Il centrodestra a Roma, dopo le polemiche di ieri, la leader di forza di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sfida Berlusconi a un passo dalla candidatura, domani decido, fa sapere, e a Napoli il Movimento 5 Stelle candida Matteo Brambilla. Siria, la Mosca ritira i jet, ma ancora raid sui terroristi, prosegue intanto il negoziato a Ginevra. Stati Uniti, nuovo super martedì per le primarie in vista delle elezioni presidenziali, Trump-Hillary verso la nomination. Il furto al Museo Castelvecchio a Verona, 13 arresti fra Italia e Moldavia. Calcio, Conte annuncia l'addio all'Italia, voglio tornare ad allenare tutti i giorni, dice. Partiamo quindi dal Belgio, sul quale è tornato oggi ad aleggiare l'incubo terrorismo. 4 poliziotti sono rimasti infatti feriti a Bruxelles nel corso di un'operazione antiterrorismo condotta dalle forze speciali della Polizia Federale belga in collaborazione con la Polizia francese nel quartiere di Forest. Un presunto terrorista sarebbe stato ucciso. Non si tratta però di Salah Abdeslam, come qualcuno ha pensato, vi ricordate, sospettato di aver avuto un ruolo chiave negli attentati del 13 novembre a Parigi. Non si capisce se l'operazione è ancora in corso o è finita del tutto. Sergio Nava? Buonasera Sergio. Ciao Roberta. A quanto pare l'operazione è terminata, tanto che proprio in questi minuti è stata annunciata per questi minuti una conferenza stampa del Premier Charles Michel, accompagnato dai ministri dell'Interno e della Giustizia del Belgio, per fare un po' di luce su un'operazione che resta ancora abbastanza oscura. Ci sono pochi punti fermi, proviamo a riassumerli. Il primo è che si sarebbe trattato di una normale perquisizione, quella avvenuta oggi pomeriggio a seguito degli attentati di Parigi. Le forze sia del Belgio, di polizia sia del Belgio sia della Francia, stanno ancora ovviamente indagando un po' più nell'anonimato. Si erano recati in questo municipio a sud di Bruxelles Forest, uno dei tanti municipi che compongono la regione Bruxelles Capitale, e pensando di trovarsi di fronte a un appartamento vuoto, sono procedute con la normale perquisizione, quando a quanto sembra qualcuno dall'interno ha cominciato a sparare colpi di Kalashnikov. Da lì è nata sono scaturite due sparatorie che hanno ferito quattro agenti di polizia di nazionalità belga e soprattutto è nato un vero e proprio assedio. Il quartiere, il municipio di Forest è stato letteralmente sigillato, decine di bambini tenuti a scuola per proteggerli, perché ci sono anche delle scuole e un asilo lì vicino. Dopodiché, ecco, la situazione si fa abbastanza confusa, perché seguono ore di stato d'assedio con giornalisti, telecamere fuori, tenute a distanza. Si parla di due presunti terroristi in fuga, di due... Quindi uno sarebbe stato ucciso e due ancora in fuga, se non sbaglio. Di questi poi non si è più parlato. Cioè, di questi tre o quattro presunti terroristi, non c'è, l'hai detto anche tu, Salah Abdeslam, o comunque collegati all'ambiente jihadista, di questi 3-4 alla fine viene solo detto, ed è l'informazione abbiamo al momento, che uno è stato trovato, è stato ucciso. Non si sa neppure chi sia, pare addirittura sia sconosciuto alle forze dell'ordine. Degli altri due in fuga, dell'altro asserragliatosi in quello che pareva un terreno abbandonato nelle vicinanze, non si è più saputo nulla. Speriamo di capirne di più. Vediamo nelle prossime ore, grazie Sergio Nava, poi man mano vi aggiorno nel caso. Intanto invece passiamo in Germania, dove la polizia di Berlino ha invece escluso la pista del terrorismo, punta invece sulla criminalità organizzata per l'esplosione di un'auto in cui è morto un uomo alla guida, avvenuta questa mattina a Berlino. La vittima, Mesut T, così viene nominato, tipo un puntato, appassionato di bodybuilding, era già noto alle forze dell'ordine per violenze, reati di traffico di cocaina, gioco d'azzardo, spaccio di banconote false. Tutto questo fa pensare che sia stato un regolamento di conti. Immigrazione: 8 gommoni carichi di migranti sono stati individuati e recuperati oggi al largo della costa libica dalla missione navale europea. Nel complesso sono circa un migliaio i migranti trasferiti sulle navi militari, il numero più alto del 2016. E siamo così alla politica italiana. Dopo la polemica di ieri, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sfida Berlusconi, che oggi ha ribadito a sua volta che una donna incinta non può fare la sindaca specie di Roma, ed è a un passo lei dalla candidatura. Domani decido, ha fatto sapere. Tra poco ci torniamo sul prosieguo delle polemiche, soprattutto sulla situazione caotica che riguarda il centrodestra a Roma. Intanto a Napoli il Movimento 5 Stelle candida Matteo Brambilla. Alla chiusura delle votazioni Brambilla ha riportato il 48% delle preferenze online, pari a 276 voti. I risultati sono stati pubblicati sul blog di Beppe Grillo. E per quanto riguarda sempre a Napoli invece le primarie del centrosinistra, Antonio Bassolino, dopo la bocciatura dei suoi primi due ricorsi alla commissione di garanzia per le primarie, ha annunciato: tra domani e dopodomani può darsi che parte il ricorso ai garanti nazionali. Quindi non intende fermarsi Bassolino. C'è anche una notizia che riguarda il tema delle pensioni: la mobilitazione di CGIL, CISL e UIL per cambiare la legge Fornero sulle pensioni è fissata per sabato 2 aprile con manifestazioni territoriali. Lo hanno deciso i segretari generali Susanna Camusso, Anna Maria Furlan e Carmelo Barbagallo, che hanno inviato una nota alle proprie strutture sottolineando che il governo non ha inteso finora aprire un confronto. Di nuovo all'estero, in Siria, Mosca, come aveva annunciato ieri il presidente russo Putin, ha cominciato a ritirare i soldati, i jet, ma ancora procedono con raid sui terroristi, mentre a Ginevra prosegue il negoziato. Si apre dunque uno spiraglio per la stabilizzazione della Siria, e non solo di questo, parleremo anche di questo più tardi qui a Effetto Notte. Per quanto riguarda invece gli Stati Uniti, oggi c'è un nuovo super martedì per le primarie in vista delle elezioni presidenziali di novembre. Urne aperte in 5 stati, si vota in Florida, North Carolina, Ohio, Missouri e Illinois, quindi Trump e Hillary ormai appaiono verso la nomination, salvo sorprese di cui eventualmente parleremo sempre nel corso di questa puntata di Effetto Notte. E poi parliamo anche dell'attentato in Costa d'Avorio di domenica. Vi ricordate l'assalto alla spiaggia della località turistica Gran Bassam, in Costa d'Avorio, circa 40 km dalla capitale, che è stata attaccata da alcuni uomini col volto coperto, armati di Kalashnikov e granate, assalto che ha provocato 16 morti, di cui 14 civili e 2 soldati. Sulla spiaggia c'erano anche 4 italiani che si sono salvati per un soffio, tra loro c'era anche Antonio Armenti, che adesso è in collegamento dalla Costa d'Avorio. Antonio, buonasera. Buonasera. Buonasera Antonio, lei si trovava lì per vacanza, per lavoro? No, io in questo lavoro mi trovo per lavoro. Un luogo del fatto, è un luogo bello, è Etoile del Sud, piscina, c'è il mare, La domenica andavamo lì a rilassarci, un luogo tranquillo fino a domenica. Fino a domenica, purtroppo. Antonio, che cosa è successo? Lei che cosa ha visto e come vi siete messi in salvo voi del gruppo di italiani? Allora, noi eravamo sulle lettine, eravamo sdraiati, erano le 13 circa, e ci eravamo alzati per andare a pranzo. Abbiamo sentito dei colpi, ma diciamo subito non ci abbiamo fatto caso, pensavamo che c'era un matrimonio, che erano fuochi d'artificio, di solito qui si usa fare queste cose. Invece dopo qualche secondo abbiamo visto una marea di gente fuggire dalla spiaggia, e a quel punto ci siamo alzati, ma cosa sta succedendo? Abbiamo visto una persona, un uomo con un giubbetto rosso, andare vicino al bancone del bar col fucile e ha incominciato a sparare. Noi a quel punto abbiamo iniziato a correre, c'era uno della sicurezza e ci ha detto: no, venite da questa parte, se non andate verso l'entrata dell'albergo. Mentre diciamo ci mettevamo in salvo, una persona dietro di noi che continuava a sparare, per fortuna sparava e dava i proiettili sulla testa, si conficcavano vicino al muro. Dopodiché ci hanno portato sotto l'albergo di uno scantinato, ci hanno chiuso dentro questa stanza e siamo rimasti lì per circa 2 ore. Dopodiché ci hanno fatto uscire e ci hanno detto: se prendete la macchina e andate via di corsa. Siamo andati per prendere la macchina, nell'attimo che stavo mettendo in moto la macchina abbiamo sentito ancora delle grida: stanno arrivando, stanno tornando, stanno arrivando, correte, correte. Abbiamo lasciato la macchina e siamo corsi ancora sotto l'albergo in questo scantinato. Dopo ancora una mezz'oretta sono arrivate le forze dell'ordine, ci hanno fatto uscire, ci hanno messo in colonna due in due con le mani alzate e ci hanno portato in un altro albergo di circa 300 metri. È arrivato un generale, ci ha rassicurato che già 3 persone l'avevano prese e rimanete qui tranquilli che noi dobbiamo ancora perlustrare la zona. Dopo è tornato, abbiamo dato le chiavi della macchina a 2 poliziotti, sono andato a prendere la macchina che era davanti all'albergo dove è successo, le 12 del sud, ci hanno portato la macchina e ci hanno scortato fino all'autostrada che è vista circa 6-7 km. Antonio, io immagino quindi la paura, il terrore vostro anche di questa fuga rocambolesca. C'era in quell'attimo là, 2 ore. 20 persone chiuse in uno sgabuzzino, non era nemmeno una stanza tanto grande, tutti lì che ci guardavamo. Antonio, comunque silenzio. Lei adesso resta in Costa d'Avorio? Continua a lavorare lì perché il suo lavoro è lì. Insomma, purtroppo abbiamo detto i morti sono stati 16, almeno voi ce l'avete fatta. Grazie Antonio Armenti e spero buona continuazione, insomma. Grazie della disponibilità. Grazie, buonanotte. Torniamo in Italia adesso con la cronaca. Parliamo del colpo milionario, vi ricordate, lo scorso novembre in un museo veronese. La banda oggi è stata arrestata. Il furto aveva fatto scalpore lo scorso novembre. Museo di Castelvecchio, Verona, banditi armati e incappucciati rubano 17 dipinti. Con estrema calma, in circa un'ora, caricano su un'automobile 17 tele di enorme valore, tra le quali 6 dipinti del Tintoretto e capolavori di Rubens, Mantegna, Pisanello, per più di 15, forse 20 milioni di euro, e fuggono. Ora, per quel furto, sono state arrestate 13 persone. La guardia giurata in servizio quella sera, il fratello, già allontanato da un istituto di vigilanza, la fidanzata di quest'ultimo, di nazionalità moldava. Proprio la donna avrebbe fatto da tramite con la manovalanza, tutti appunto moldavi, e proprio nel paese dell'est si troverebbe ora la refurtiva, che sarebbe già stata individuata ma non ancora recuperata. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo a questo punto al calcio con Dario Ricci, Champions League, anche se ci sono solo le straniere, non ci sono squadre italiane, no, stasera, Dario? Eh sì, domani sera la grande serata di Bayern Monaco-Juventus, cara Roberta, ma intanto stasera in campo, e siamo in entrambi i casi al 31esimo di gioco, Atletico Madrid-PSV Eindhoven, risultato ancora fermo sullo 0-0, così come all'andata, quindi chissà, magari anche supplementari e rigori in vista, staremo a vedere. 0-0 anche tra Manchester City e Dinamo Kiev, qui però gli inglesi sono forti del 3-1 ottenuto all'andata in Ucraina, quindi il passaggio ai quarti dovrebbe essere cosa fatta. Grazie Danurici, poi parleremo anche dell'addio di Conte all'Italia e brevemente questo allarme sui teenager italiani. Gli adolescenti italiani sono in media più obesi e pigri dei pari età europei, hanno più difficoltà nelle relazioni con gli adulti che sfociano in un senso di malessere che colpisce vari aspetti della salute. Questo è un po' il ritratto in chiaroscuro dell'OMS in questo studio europeo appunto sugli adolescenti. Diciamo che la cosa positiva è un tasso di bullismo e violenza molto più basso della media in Italia rispetto agli altri paesi. Adesso, prima di aggiornare chi sta viaggiando, alcuni dei vostri messaggi che stanno arrivando sulla sfida di Giorgia Meloni a Berlusconi e anche a Bertolaso rispetto alle polemiche di questi giorni. Probabilmente domani è quasi certa la sua candidatura. Può quindi una mamma, diciamo, uno stato di gravidanza come il suo, secondo voi, ricoprire ruoli istituzionali così importanti? E chi deve deciderlo? Questo ascoltatore, Clara da Roma, al 349-238-6666. Buonasera, brutta frase quella di Bertolaso, la signora Meloni, pur di raggiungere la meta si offende senza motivo anche chi non ha nessuna colpa, dice poi. Un altro sms, Bertolaso si era qualificato già tempo fa. Miki scrive, però è vero che fare la mamma è un lavoro vero e proprio, con tanto di capo ufficio, tra virgolette, che fa mobbing, svegliandosi alle 4 del mattino, quindi immagina un bambino, mettendosi a strillare come se non ci fosse domani, solo perché nella culla al buio. Io sarei per riconoscere uno stipendio non alle casalinghe, tra parentesi se lasciano la casa in disordine, ma alle mamme sì, sulla Meloni decida la Meloni, dice Miki. Poi Anthony da Brescia, spero non ci vada, perché considero la Meloni uno dei migliori politici italiani e fare il sindaco a Roma vuol dire bruciarsi. Tante posizioni diverse, quindi tra la pagina Facebook di Effetto Notte, continuate con le vostre riflessioni, oppure i messaggi al 349-238-6666. Riuscirò a leggere, forse anche con la lente di ingrandimento, qualche messaggio su WhatsApp, visto che, come vi dico, ogni tanto arrivano piccoli piccoli. Ci sentiamo un momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, sempre Roberta Giordano con voi, i vostri messaggi continuano ad arrivare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, lo sapete, sempre lì per voi giorno e notte, e anche per i messaggi c'è il numero 349-238-6666. A proposito sempre di questa polemica su Giorgia Meloni, che avete sentito ha praticamente deciso di candidarsi, domani dovrebbe arrivare, diciamo, la parola definitiva ufficiale. Sempre su questa vicenda vi dicevo, quindi i messaggi, possibile che, no, questo è un altro messaggio che non c'entra. Gilles sulla pagina Facebook, con tutta la disistima per la fascistona Meloni, così dice Gilles, dovrebbero decidere i romani, non il ridicolo prodotto berlusconiano Bertolaso. Marco scrive, oggettivamente la Meloni potrebbe avere delle difficoltà, perlomeno nel periodo iniziale dopo il parto, ma del resto è giusto permetterle di candidarsi. Se vincesse, la notizia sarà non tanto che una neomamma è stata eletta, ma che lei, la Meloni, per la prima volta lavorerebbe. Vabbè. Cristiano, credo sia una scelta forzatissima, dettata non solo dal ricatto di Salvini a far saltare ogni accordo in merito, sta accettando controvoglia in una logica più forte di lei, a cui non può sottrarsi per ragioni di numeri e prospettive future. Quindi, prima di cominciare a entrare nel cuore degli argomenti con gli ospiti, vi ricordo le notizie più importanti della giornata, se avete acceso adesso invece che puntualmente alle 21. Blitz a Bruxelles, ucciso un terrorista, altri in fuga, 4 poliziotti feriti, isolato il quartiere di Forest un po' per tutto il giorno. Nel centrodestra è scontro su Roma, Meloni sfida Berlusconi, Bassolino intanto a Napoli chiama Renzi e dice qui ci vuole un nuovo voto e poi tutti uniti. Italia in deflazione a febbraio, balzo del debito pubblico. Mosca ritira i jet dalla Siria, come ha annunciato ieri Putin, ma ci sono ancora raid sui terroristi e prosegue intanto il negoziato a Ginevra. Stati Uniti per le presidenziali 2016, anche questo è un super martedì bis. Trump a un passo dalla nomination e naturalmente anche Hillary Clinton sembra per i democratici la favorita. L'annuncio del Papa, Madre Teresa sarà santa il 4 settembre, la canonizzazione sarà a Roma, nessuna cerimonia a Calcutta. È stata presa la banda che rapinò il museo di Castelvecchio vicino Verona, 13 arresti tra moldavi e italiani. E poi Conte che annuncia l'addio all'Italia, voglio tornare in un club, il CT lascerà dopo gli europei in Francia, massimo impegno, dice Conte. Quindi ancora politica italiana, ieri dominata, ne abbiamo parlato tanto, dalla polemica suscitata dalla frase dell'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, candidato a Roma, sembrava del centrodestra intero, ma allora sembrerebbe solo di Forza Italia. La sua frase, questa polemica statuita dalla frase su Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, sulla possibilità che possa essere la sua vice sindaca. A questa domanda così aveva risposto ieri. La Meloni potrebbe fare il vice sindaco. No, la Meloni deve fare la mamma. Mi pare che sia la cosa più bella che le possa capitare ad una donna nella vita. È definitivo questo. Beh, la Meloni questo deve fare la mamma. Però, no, deve gestire questa pagina della sua vita, che è una delle pagine per una donna, credo che sia la più bella in assoluto. Non vedo perché qualcuno deve costringerla a fare una campagna elettorale che comunque sarà feroce. E poi, nel momento in cui deve incominciare ad allattare, incominciare anche a occuparsi delle buche, della sporcizia, del traffico, dei topi, è della microcriminalità, di tutto il resto. Questo ieri sulla 7. Poi, dopo questa pioggia di reazioni bipartisan, Bertolaso ha detto di essere stato frainteso, ormai sport nazionale da lungo tempo, che voleva solo proteggerla, come ha ribadito anche oggi a 24 Mattino qui a Radio 24. Giorgia Meloni ha il diritto di vivere questo periodo bellissimo della sua vita in tranquillità, senza essere sottoposta all'incredibile e vergognoso stress di una campagna elettorale sporca, aspra e piena di polemiche, andando in giro dalla mattina alla notte per le strade a cercare di rendersi conto di quella che è la drammatica situazione di questa città. A rincarare la dose su una Meloni che è meglio che pensi alla maternità, oggi il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi a Radio Anch'io. È una cosa chiara a tutti che una mamma non può dedicarsi a un lavoro, e in questo caso sarebbe un lavoro terribile, perché Roma è in una situazione terribile. Quindi io veramente non, e poi ci sono tutte le dichiarazioni della stessa Giorgia che fino a ieri sera avevano escluso una sua possibilità. Fare il per carità, questo Roma, è vero che aveva detto qualche tempo fa: no, non mi candido perché sono incinta. Insomma, questo pancione che fa discutere dal Family Day a queste elezioni, a queste primarie. Oggi poi Bertolaso ancora tornato ha detto: certo, se la Meloni avesse partorito 6 mesi fa potrebbe fare tranquillamente il sindaco. Insomma, cerca un po' di rigirarci intorno, è un'anticipazione questa di Porta a Porta stasera. Ieri, di questo desiderio di proteggere la Meloni e le donne in genere, qui a Effetto Notte c'è stata un'interessante lettura da parte della professoressa Donatella Campus dell'Università di Bologna. Sentiamo come interpreta questo desiderio di proteggere in questo caso la Meloni. Quello che io ho trovato anche interessante della dichiarazione di Bertolaso è il fatto che lui ha come esposto l'argomento, diciamo, in maniera quasi protettiva nei confronti della Meloni, no? Perché ha detto: ma la Meloni lasciamola stare, cioè lasciamola appunto fare la mamma, perché non vorrete costringerla a questa campagna elettorale che sarà dura, insomma, di impegni gravosi, che è una forma che richiama quello che tecnicamente si chiama un po' il sessismo benevolente, cioè quella situazione in cui le donne sono anche blandite, magari anche incoraggiate, se accettano di stare all'interno, diciamo, dei ruoli tradizionali. Ecco, questa era la lettura piuttosto interessante, questo sessismo benevolente, tanto che a un certo punto oggi praticamente ha deciso, domani arriverà la decisione ufficiale di Giorgia Meloni comunque di candidarsi, quindi di sfidare Berlusconi e anche Bertolaso. Saluto Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Ciao Guido, bentornato. Ciao, buonasera. Ecco, con questo annuncio, tra l'altro, a parte tutta questa polemica per l'appunto sulla gravidanza, può o non può, mi sembra una serie di sconsigli disinteressati tra virgolette di Bertolaso e Berlusconi, comunque con questo annuncio i candidati a Roma del centrodestra diventano praticamente 4, quindi Meloni, Bertolaso, Storace, Alfio Marchini, una gran confusione, devo dire. Beh, insomma, dal punto di vista politico, il risultato di tutta questa vicenda è che appunto il centrodestra si è praticamente suicidato politicamente, perché partendo con un parterre di 4 possibili candidati, ovviamente le possibilità di competere al meglio si assottigliano, e uso un eufemismo, voglio dire. Quindi da questo punto di vista l'errore politico è evidente, così come è stata evidente la gaffe di Guido Bertolaso, il quale si sarebbe dovuto limitare semmai a dire che la Meloni 40 giorni fa circa aveva detto che lei non sarebbe stata candidata perché aveva in vista la gravidanza, vuol dire, quindi, e questo è vero. E quindi lui si doveva fermare qui, punto, perché l'aveva detto la Meloni, perché decide la Meloni in questo caso della sua vita. Questo non l'ha fatto, e quindi la gaffe è evidente. È evidente che la Meloni ha cambiato evidentemente idea da 40 giorni a questa parte, e che quindi su questa gravidanza e su questo figlio in arrivo si giocano tutte le strumentalità incrociate della politica, e questo, diciamo, lo spettacolo non è un granché, direi, no? È anche un pessimo spettacolo, perché insomma ci si poteva aspettare che almeno questo tema fosse lasciato fuori da una competizione elettorale che certamente è difficile, complicata, ma che insomma non aveva nessun bisogno anche di avvitarsi sul tema di una gravidanza, ecco. E Guido, tra l'altro, annunciato Bertolaso sabato, c'erano state le gazebarie lo scorso fine settimana a Roma su di lui, no? Sull'indice di gradimento, sì, delle Romane e dei Romani, annunciato per questo sabato le nuove gazebarie, ma sul programma, dice, una consultazione annunciata sul suo programma. C'è una ricerca di legittimazione un po' ossessiva, come possiamo dire. Insomma, gazebarie già, diciamo, già dal nome indicano qualcosa di complicato, diciamo, di difficilmente comprensibile, se vogliamo. Già il sistema delle primarie, come abbiamo visto anche per il PD a Napoli, presenta delle lacune, diciamo, dei buchi evidenti. Ah sì, con Bassolino che adesso, ecco, fa ricorso a livello nazionale dopo due ricorsi. Esatto, no? E quindi vuol dire, ci sono dei problemi su questo, sulle primarie. Le gazebarie lasciamo un attimo da parte, immaginiamo poi le gazebarie sui programmi di governo. Ecco, questa è un'altra cosa che si poteva tranquillamente evitare, perché la credibilità di un'operazione del genere è, diciamo, rasenta lo zero da un punto di vista effettivo, politico e anche di rispetto delle opinioni dei cittadini e elettori, che non si possono prendere in giro. Grazie Guido Gentili, grazie Guido, buona grazie serata. A voi. Ciao Guido. Ora invece trasferiamoci su orizzonti più ampi, internazionali, la Siria, dopo che ieri il presidente russo Putin, ne abbiamo parlato, no, ha annunciato a sorpresa il progressivo ritiro delle truppe russe dalla Siria, perché ha detto abbiamo raggiunto i nostri obiettivi. Oggi è ricominciato questo ritiro a 5 anni dall'inizio di una guerra civile che ha causato, è bene ricordarlo ogni tanto, ben circa 400.000 morti in Siria, oltre 7 milioni di profughi all'interno e all'esterno della Siria. Ecco anche perché tutto questo flusso, moltissimi vengono dalla Siria, da un paese disastrato da 5 anni di guerra civile che è cominciata il 15 marzo 2011, 5 anni fa, con le grandi manifestazioni di piazza. Vi ricordate le varie primavere arabe? Era iniziata anche in Siria, solo che poi qui con la durissima repressione del governo di Assad e poi l'innesto di gruppi di terroristi islamici, insomma, ne è venuta fuori questo conflitto tremendo. È ripreso intanto lunedì a Ginevra quell'arduo negoziato tra le parti siriane. A sorpresa, vi dicevo, Putin ha annunciato questo ritiro, e dopo l'annuncio intanto Damasco ha fatto sapere oggi che si aspetta che gli Stati Uniti facciano più pressione su coloro che non accettano una soluzione in Siria. Ne parliamo con Paolo Magri, direttore dell'ISPI, che è l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buonasera Magri. Buonasera a voi. Quindi la Siria è partita da questa primavera araba, è diventato un macello internazionale, perché naturalmente ha avuto poi implicazioni, no, di destabilizzazione di tutta quell'area, e adesso però si apre questo spiraglio, c'è una possibilità effettiva, anche se non si capisce bene la posizione della Russia, se effettivamente stia ritirando gli Stati Uniti. Ah, in effetti non tutti i contorni sono ancora chiari, ma una cosa è certa, che Putin ha spiazzato, preso di sorpresa gli interlocutori, e lo capiamo dalle reazioni fra il cauto e lo sbigottito che stanno avendo le cancellerie americane e non solo. Putin aveva stupito tutti, prima di tutto di sorpresa, quando ha annunciato 6 mesi fa l'intervento in Siria, paese dove in realtà c'era già, e ha stupito ora di nuovo tutti a sorpresa con il ritiro, quando in realtà rimane ancora, perché ciò di cui stiamo parlando è di un ritiro di buona parte delle truppe e dei mezzi, circa 80 aerei russi, ma 800 uomini rimarranno, da quanto si è capito, rimarranno probabilmente anche i missili S-400, e rimane rafforzata la presenza nella base di Tartus, nel porto di Tartus, nella base aerea. Quindi ci sono ancora elementi da chiarire sull'entità di questo ritiro, ma possiamo già dire che ha di nuovo stupito e ottenuto dei risultati, perché innanzitutto annuncia il ritiro durante un cessato il fuoco che gli permette di cantare vittoria. Perché effettivamente c'è un cessato il fuoco da qualche tempo, non sempre rispettato. Sta tenendo l'accordo russo-americano di 2 o 3 settimane fa, di fatto sta tenendo. E lui annuncia il ritiro il primo giorno dei colloqui, potendo dire, in parte anche a ragione, che questi colloqui, se andranno avanti, sono merito suo, perché prima, colpendo i ribelli, difendendo Assad, ha obbligato i ribelli ad abbassare la cresta e andare a sedersi al tavolo negoziale. Oggi, ritirando il sostegno militare pieno ad Assad, lancia un messaggio ad Assad di abbassare lui la cresta nel negoziato. Quindi di fatto si ritaglia un ruolo di grande artefice di questa mediazione. Peccato che questa sua operazione, ricordiamolo, era iniziata per contrastare lo Stato Islamico, e lo Stato Islamico, nonostante i 9.000 raid di russi e i 2.000 miliziani uccisi, ha arretrato ben poco. Ecco, questo è il punto, infatti, Magri, cioè si ritira, abbiamo raggiunto i nostri obiettivi, ma l'obiettivo di eliminare o almeno di far arretrare fortemente l'ISIS è stato raggiunto? No, Putin non solo per colpa russa. Putin, quando aprì questa operazione, annunciò al popolo russo che andava in Siria per contrastare lo Stato Islamico e per difendere gli interessi russi, visto che in Siria c'erano anche dei combattenti russi, ceceni. Questo è quello che dichiarò. In realtà sappiamo che l'obiettivo reale è stato anche un altro, cioè quello di difendere Assad e combattere i ribelli. Oggi, quando lui, seguendo quanto ci dice, lascia la Siria, e in parte sono già partiti dei soldati, questo è innegabile, lo Stato Islamico in Iraq ha arretrato molto, si stima che abbia perso circa il 40% del terreno che controllava, in Siria molto meno, molto molto meno. Non è solo responsabilità sua, ricordiamolo, certo. Però questa operazione su cui oggi canta vittoria non è sicuramente completata nei termini che diceva. Il processo è ancora lungo. Grazie Paolo Magri dell'ISPI, direttore dell'ISPI. Grazie. Buona serata. E adesso, prima di lasciarci brevemente per una pausa di ricreazione, ancora qualche vostro messaggio tra la pagina Facebook di Effetto Notte e i messaggi al 349-238-6666. Leggo anche il WhatsApp. Filippo dice: l'unica a dover scegliere è Giorgia Meloni, ovviamente, sulla sua gravidanza e sulla possibilità che una donna in gravidanza possa o non possa ricoprire ruoli importanti come la sindaca di Roma. Vicenda Meloni, dice un altro messaggio, si conferma la scarsa propensione della società intera, politici e giornalisti in primis, a mettersi nei panni di prendere le parti dei più deboli. I bambini, qual è il bene per quel bambino che deve nascere dalla Meloni? Però effettivamente lo saprà la Meloni. Silvia dice: non ho nulla contro le donne in gravidanza che ricoprono incarichi di rilievo, ma Roma ha bisogno di un sindaco panzer che sia disposto, se necessario, a stare in ufficio fino a tarda sera. Non mi sembra che Giorgia Meloni saprà dedicarsi al 100% a una causa fondamentale come far risorgere Roma dalle sue macerie. Alberto, no, questo non è di Alberto, è questo di Carlo. Ha ragione Bertolaso, fare il sindaco di una città come Roma richiede il 299% delle forze da dedicare a tale compito. Purtroppo il buonsenso, come sempre in queste cose, viene maltrattato dalla politically correct, dice Carlo. Massimo: magari Bertolaso avrà ragione, ma la gravidanza di Meloni non sono fatti suoi, fa finta di dare consigli mentre invece è pesantemente interessato. Atteggiamento, dice Massimo, falso e ipocrita. Prendiamoci questa pausa, ci sentiamo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. I vostri messaggi che arrivano qui sulla pagina di Effetto Notte o di Facebook, oppure al 349-238-6666, sempre sulla polemica relativa alla frase di Bertolaso su Meloni. Meloni che oggi ha deciso più o meno di candidarsi, dice: domani do la risposta definitiva, ma insomma praticamente siamo lì. E la sua sfida è: pensate quindi che una situazione come la sua di gravidanza possa permettere quindi a una donna di ricoprire ruoli istituzionali importanti, e chi dovrebbe deciderlo? Scrive Lavinia: sono mamma di due figli, scrive sulla pagina Facebook, di due figli e commerciante. Dopo due mesi dai parti sono dovuta tornare di corsa a lavorare dalla mattina alla sera per tirare la mia carretta con grandi sacrifici. Perché non dovrebbe farlo la Meloni? Basta con la storia che la donna si realizza solo con la maternità, scrive Lavinia. Alfio dice: oggi pensare che una madre non possa ricoprire ruoli istituzionali è inconcepibile, è scontato, assolutamente logico che una donna nella qualità di madre possa essere anche sindaco. La decisione spetta per primo alla persona che vuole candidarsi, successivamente in una democrazia spetta ai cittadini decidere. Poi WhatsApp, Francesco, pur ritenendo Giorgia Meloni incompetente e senza spessore, dice: Bertolaso non può permettersi di infrangere la sua sfera personale con commenti sessisti da bar, scrive Francesco. Tra poco entriamo in un altro tema, intanto vi ricordo quali sono le altre notizie importanti, a parte appunto questa quasi ufficiale candidatura. Belgio, blitz antiterrorismo a Bruxelles, 4 poliziotti feriti e un sospetto terrorista ucciso. Immigrazione, 1000 migranti recuperati al largo della Libia dalle navi militari europee. Siria, Mosca ritira i jet ma ancora ci sono raid sui terroristi. Prosegue intanto il negoziato a Ginevra. Stati Uniti, nuovo super martedì, ne parleremo tra pochissimo. Il furto al Museo Castelvecchio a Verona, 13 arrestati fra Italia e Moldavia. E per il calcio, Conte che annuncia l'addio all'Italia. Quindi questo è il Super Martedì, un'altra tappa importante nelle primarie americane, Super Tuesday. Come lo pronunci tu, Marco Balsania, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti? Eh sì, Super Tuesday, anche questa volta, almeno Super Tuesday, ma qualcuno... il secondo almeno, il secondo super omega, ormai insomma, i superlativi si sprecano in questa campagna elettorale. Perché ci sono ben 5 grossi stati ancora dove si vota, no? Dove si sta votando in queste ore. Giusto? Esatto, sì, 5 grossi stati che adesso hanno le urne aperte, 5, cioè la Florida, dove tra l'altro mi trovo in questo momento, l'Ohio, il North Carolina, il Missouri e l'Illinois. I due, diciamo, più grandi stati in gioco oggi sono la Florida e l'Ohio, insomma, che dovrebbero dare un responso ulteriore proprio sui due front runner, cioè Donald Trump per i repubblicani, il controversissimo Donald Trump, e Hillary Clinton per i democratici. Pare che Hillary dovrebbe avere la vittoria già in tasca, ma anche Trump alla fine tra i repubblicani, seppur contestato molto all'interno del suo stesso partito, e poi anche una campagna elettorale piuttosto nervosa, ci sono state anche delle tensioni, delle violenze ai suoi comizi. Marco. Sì, decisamente una campagna sopra le righe, si potrebbe dire, e che probabilmente riserverà ancora molte sorprese anche al di là di oggi. Come ricordavi, tra i democratici la partita è più prevedibile. Hillary Clinton è la chiara frontrunner, ma Bernie Sanders, lo sfidante da sinistra, cerca ancora di giocare le sue carte. Tra gli stati in lizza oggi Hillary dovrebbe averla strassegnata in Florida, ma Sanders punta a nuove sorprese negli stati del Midwest, in particolare della cintura industriale, cioè Ohio, Illinois, forse anche in Missouri, e sicuramente se riuscisse a strappare una vittoria a sorpresa in alcuni di questi stati, ecco, la sua candidatura comunque rimarrebbe in gioco e la strada per Hillary non sarebbe comunque, diciamo così, facile, anche se rimane la frontrunner. Per i repubblicani invece la battaglia è quanto più mai intensa e ricca di colpi di scena. In Florida Donald Trump è in netto vantaggio, Rubio, il candidato, diciamo, locale, il senatore Marco Rubio, potrebbe essere arrivato all'ultima spiaggia, anche se lui nega di volersi ritirare, però una vittoria di Trump netta, soprattutto in Florida, come dicono i sondaggi, potrebbe lasciarlo davvero senza molte chance. Invece, ecco, l'Ohio, la battaglia è più competitiva, lì è a testa a testa nei sondaggi tra Donald Trump ancora una volta e John Kasich, uno degli altri due candidati veramente in lizza, cioè John Kasich, diciamo, e Ted Cruz. Ecco, se Trump vincesse questi due grossi stati e magari anche altri, certo che la sua strada sarebbe sempre spianata, nonostante le violenze, le polemiche. Ricordavi, oggi anche Obama è sceso in campo di fatto contro Trump per denunciare i toni volgari e divisivi e pericolosi della campagna elettorale repubblicana. Insomma, vedremo nelle prossime ore che cosa succede, si dovrebbero chiudere le urne intorno alla nostra mezzanotte. Grazie Marco Balsania dalla Florida. Grazie Marco. Grazie a voi. Fiabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Con uno sguardo sguardo veloce ai vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Nota, il 349-238-6666. Max scrive: Bertolaso dà ordini a Meloni che la campagna sarà feroce, lo dimostrano già queste sue prime dichiarazioni, falsamente amichevoli, lo discreditano completamente. Allora, quali sono le notizie importanti? Ve lo ricordo velocemente, visto che c'è stata una pausa. Blitz a Bruxelles, oggi ucciso un terrorista, altri in fuga, 4 poliziotti feriti, è stato isolato il quartiere di Forest. Poi nel centrodestra, scontro su Roma, Meloni che sfida Berlusconi e domani potrebbe candidarsi per Roma. Italia in deflazione, a febbraio balzo del debito pubblico, Mosca che ritira i jet dalla Siria, ma i raid sui terroristi proseguono, e abbiamo appena parlato del super martedì delle primarie negli Stati Uniti. Europa 24 notte. Spazio europeo, parliamo del semaforo al posto dell'etichetta alimentare. La Commissione europea rallenta l'iter sulla procedura di infrazione contro le etichette cosiddette a semaforo, che sono state adottate nei supermercati del Regno Unito, mentre sale a 15 il numero dei paesi dell'Unione contrari a questo sistema. Una battaglia che l'Italia porta avanti per salvaguardare i nostri prodotti, che vedono perdere quote di mercato sempre maggiori a causa di un semaforo poco indicativo dei reali valori nutrizionali degli alimenti. La Commissione europea rallenta l'iter sulla procedura di infrazione contro le etichette cosiddette a semaforo, adottate nei supermercati del Regno Unito nel 2013. Il sistema britannico, lo ricordiamo, prevede un bollino di colore rosso, giallo o verde a seconda del contenuto di grassi, grassi saturi, sale o zuccheri, che si basa su ogni pezzo di prodotto, non sulla quantità effettivamente consumata. Intanto sale a 15 il numero di paesi dell'Unione Europea contrari alle etichette nutrizionali a semaforo, una battaglia portata avanti dall'Italia contro un sistema che danneggia i prodotti made in Italy. Ieri presentato a Bruxelles nel corso del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura dei 28 uno studio Nomisma Federalimentare, secondo cui a perdere la maggiore quota di mercato è il prosciutto di Parma. Luigi Scordamaglia, presidente di Federalimentare. Sì, il segnale è stato soprattutto italiano, speriamo che la Commissione europea lo faccia suo. I dati presentati ieri hanno evidenziato che il semaforo alimentare non solo non fa l'interesse dei consumatori, ma in maniera semplicistica attribuisce ai prodotti di qualità, non solo italiani ma europei, una valenza negativa, avvantaggiando invece prodotti che sono riformulati, chimici e di bassa qualità. Non credo che questo sia l'interesse. Ieri se ne è presa consapevolezza e speriamo che la Commissione proceda con la procedura di infrazione. Secondo lo studio presentato ieri dal Ministro dell'Agricoltura Martina a Bruxelles, l'etichettatura a semaforo nel periodo dal 2013 al 2015 ha portato a una perdita secca delle quote di mercato per alcuni prodotti di qualità, soprattutto, ma non solo, italiani. Secondo i dati, è il prosciutto di Parma con il bollino sotto accusa a soffrire di più, registrando una perdita a quota 84% fra maggio e luglio 2015, rispetto agli stessi mesi del 2014, mentre quello non etichettato cresce del 40%. Nel caso del parmigiano reggiano preporzionato, invece, quello senza bollino fra dicembre e febbraio 2014 ha aumentato le vendite del 70%, mentre lo stesso prodotto con il bollino è calato del 4%. Dati drammatici, commenta Scordamaglia. Abbiamo fatto la ricerca proprio per quantizzare questo impatto e sono venuti fuori dei dati drammatici, nel senso che parmigiano reggiano, prosciutto di Parma, ma anche formaggi di qualità di altri paesi hanno dovuto un crollo a seguito dell'applicazione del bollino rosso, che va dall'11 fino al 50% a seconda delle differenti tipologie. Cioè questo sistema disincentiva l'acquisto e incentiva invece l'acquisto di prodotti di scarsa qualità. Prodotti italiani danneggiati, ma non solo. A perdere quote di mercato anche gioielli francesi come il formaggio Brie. Il sistema è in contraddizione con una scelta strategica europea, che è quella di spingere sulla qualità dell'agroalimentare, rafforzando DOP e IG, ha spiegato il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina, sottolineando che non è solo un tema italiano, ma un grande tema europeo. Un trend dunque da invertire con strategie precise, come indicato dal presidente di Federalimentare. Sicuramente fare più comunicazione, far capire che non è rincorrendo prodotti a base di edulcoranti sintetici che si educa ad una corretta alimentazione, ma è con una dieta equilibrata, con l'esercizio e la scelta di prodotti di qualità come quelli italiani. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Mentre continuano ad arrivare i vostri tanti messaggi, soprattutto alla pagina Facebook di Effetto Notte, ma anche al 349-238-6666, devo sentire Dario Ricci per aggiornamenti sulla Champions League e anche per l'addio di Conte alla nazionale. Beh sì, rimaniamo in Europa di fatto, già, cara Roberta, con la Champions, 52esimo di gioco a Madrid, ancora 0-0 tra Atletico e PSV e quindi supplementari sempre più vicini, visto lo 0-0 anche dell'andata. 0-0 anche tra Manchester City e Dinamo Kiev, ma come già ricordavamo qui gli inglesi sono forti del 3-1 ottenuto all'andata in Ucraina, quindi qualificazione blindata. Dicevamo Antonio Conte che lascia la nazionale, beh, oggi è arrivato l'annuncio ufficiale del presidente della Federcalcio Tavecchio, ma insomma era una commedia che aspettava solamente l'ultimo atto. Conte andrà al Chelsea, una delle big europee, dove potrà contare anche sui soldoni di Abramovic per riportare in alto i Blues, quindi dall'azzurro passa al blu, diciamo così, scegli una tonalità un pochino più calda. E per quanto riguarda i suoi potenziali sostituti, in pole position sembra esserci Roberto Donadoni, attualmente al Bologna, che già è stato CT azzurro dopo l'addio di Lippi, dopo il successo di Germania 2006, ma spunta come outsider un nome pesante, Fabio Capello, e il tecnico del Torino Ventura non sarebbe del tutto fuori gioco, quindi staremo a vedere chi siederà sulla panchina azzurra, comunque dopo gli europei di Francia 2016, dove Conte comunque guiderà la nazionale. Grazie Dario Ricci, ancora un messaggio tra i tanti. Massimo da Roma: Bertolaso sa bene ciò che fa con quella frase pastura l'elettorato anziano retrogrado della destra, purtroppo soprattutto quello femminile. Viva Berlusca e i suoi uomini del fare, dice Massimo da Roma. Altri difendono la scelta di Giorgia Meloni, dicono come Alberto sulla pagina Facebook di Effetto Notte: può fare tranquillamente il sindaco, la gravidanza non mi sembra una condizione ostativa. Altri invece dicono sarebbe consigliabile stare a casa. Insomma, deciderà lei, domani sapremo. Ci risentiamo alle 22:00.